I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Novità dalla Padania, caro Parenzo. Novità, mancava. Grandi novità ci dalla mancava, Padania. Dalla Padania che comunque non è quella dipinta dal signor Birzì nelle sue interviste. Questo bisogna dirlo, sì, sì. Questo bisogna dirlo ancora più duramente di quello che abbiamo fatto ieri. Il signor Birzì. Non darà ragione lei, caro Cruciani, a quell'assessoruccolo della Lega? No, quello no, quello no, quello no. Assessoruccolo, ho detto. Però devo dire che quando uno fa un'intervista come quella che ha fatto Virzia Repubblica, in cui parla di cose che riguardano il berlusconismo, ottima, Arcore, secondo me, ottima. Pessimo. Si limiti il signor Virzì a fare il regista. Si limiti a fare il regista senza parlare della Brianza come una sorta di landa, no? In mano a sfruttatori, una landa desolata, una landa dove ci sono solamente degli aguzzini, più o meno, no? Semplicemente perché non la conosco. Vabbè, ma lasciamo perdere questo argomento. Perché ho iniziato a parlare di questo? Beh, per la Padania, sì, la Padania. Novità dalla Padania. È tornato a parlare l'amico Buonanno. No, sì. Detto good ass, no? Good ass hole. Good ass hole. Sì. Onorevole Buonanno. Che tu traduci in buon anno. Sì, buon anno. Volgarmente. Non so è una delle tue poche volgarità. Io ne dico moltissime di volgarità. Ma perché non so quante abbia quel cognome lì, mica per offendere. No, no, lui si offende moltissimo. Dice che offende anche il padre quando fa così. Vabbè, questo no. No, ma no, ma invece tu dovresti continuare. Perché un po' di volgarità ti fa bene. È solo una battuta, dice Bossi. Una battuta. Un po' di volgarità ti fa bene. Fa bene anche a te. E questa sera ne avremo tantissime. Sentirai più avanti. Più avanti gli ospiti pazzeschi che abbiamo. Questa sera. Sì. Ma non si dice prima quello che accade. Confindustria, questa è la radio della Confindustria. Allora, Buonanno dice che il Papa è chi è che ha detto? Il Papa è napoletano, lo hanno citato più volte, ti giuro. Napoletano. Ah, non pensavo napoletano. No, quello è il direttore del Sole 24 Ore, eccetera. Napoletano, il presidente della Repubblica. Buonanno, onorevole Buonanno, prego. Come vede sono molto riflessivo e calmo in questo 2014, signor Presidente. Ne siamo lieti, onorevole Buonanno. Le auguro anche un buon anno. Ricambio. Come vede, sia il Presidente della Repubblica il 31 di dicembre mi ha nominato più volte e anche il Santo Padre il 1 di gennaio, quindi sono molto motivato in questi ultimi tempi. Evidentemente piace la mia politica schietta che faccio anche in Parlamento. Hai capito? Siccome hanno augurato buon anno. Sì, ma ricoveratelo, dai. Ma ti pare che uno in Parlamento dice delle robe così? Fa perdere tempo. Ma dai, ma c'è poco da ridere, è una roba grottesca. Ma questa è una battuta. Ma dai. Ma uno prende la parola in un consesso come quello, secondo te? Così. Per dire che così. Il Papa e il Napolitano lo hanno citato più volte, dicendo buon anno, buon anno. Ma ricoveratelo, mandategli un'ambulanza. Ma no, questa è seria invece, il signor Pellegrin di Radio Padania. Noi siamo ormai specialisti di Radio Padania. Sì. Pellegrin, conduttore di Radio Padania. Sarebbe da farci veramente un film su questi personaggi. So che hai accanto un personaggio che di film ne sa qualcosa. Un maestro, io sono cresciuto con Dostoevsky e il personaggio. Gli consiglio di dare un'occhiata ogni tanto, anche se lui dimora a Roma. Gli consiglio di dare un'occhiata a qualche personaggio che spunta fuori dalla Padania. Ridens, Radio Padania, un conduttore si chiama Pellegrin. E qua diamo suggerimento al maestro che è qui, che tra poco presentiamo. Senti questa cosa. Fallo ascoltare anche. Aspetta, questa è una cosa tremenda, ha detto. Rivolta agli extracomunitari: bocche e cerniere lampo devono essere cucite, ci sarebbero meno stupri. Senti Pellegrin. In onore di Yusseid Danerabn, fa parte di uno di coloro che a Roma, vi ricordate, sotto Natale, Si erano cuciti le labbra. Purtroppo pertinente l'osservazione che è arrivata da affaripadani.info, dall'amico Marco Scaglia. Se si fossero cuciti certi migranti anche la cerniera dei pantaloni, avremmo meno stupri. Se si fossero cuciti le mani dietro la schiena, avremmo meno furti, meno violenze. Come una madre e un figlio. Parenzo, so che ti stai scaldando per queste cose, diventi caldissimo. Diventi caldissimo. No, ma quella è Radio Cucus Clan, come detto più volte. Aspetta, poi se la prende anche con te, che dice: Parenzo, stai con le migranti bulgare che brutalizzano le anziane. Senti, ti prego, senti. Ma perché ridi? Cioè, dici delle cose. Non è un film! Ma perché, è un uomo perché reale sono cose. Questo, ma sono uomo, cose ai limiti della comicità, anzi, direi non ai limiti, proprio sono nella più totale comicità. Ricordiamo naturalmente che le migranti bulgare tanto care al signor Parenzo, così care, così vicine a lui, così meritevoli delle sue attenzioni, quelle di cui parlavo io naturalmente, non di tutte le migranti bulgare, avevano rapinato e brutalizzato una signora anziana disabile sulla sedia a rotelle. Durante quella trasmissione l'avevo detto almeno 20 volte, loro non ve l'hanno fatto sentire, ma io lo ricordo. Quindi, per proprietà transitiva, più che simmetrica, Parenzo sta dalla parte delle migranti bulgare che brutalizzano le anziane disabili sulla sedia a rotelle. Questo governo pensa solo a durare, ma tu non devi durare. No, tu devi fare. Io non voglio aspettare, voglio fare. Oh, sigletta per la Renzata del giorno. Ci siamo inventati questa sigletta con Maurizio Crozza che imita Renzi. Beh, questa volta la Renzata del giorno viene non da Renzi, ma da un renziano che si chiama Nardella. Ah, come no? Ospite del signor Minoli questa mattina. Nardella a un certo punto ha messo in grave difficoltà il governo, ma d'altra parte è una specialità di Renzi delle ultime settimane. Signor Nardella, fiorentino, come l'ho visto tra l'altro in tribuna a Firenze esultare domenica allo stadio, dunque proprio a tutto di Renzi, renziano, PD, fiorentino, tifoso della Fiorentina, tutto. Signor Nardella se la piglia con Saccomanni, Saccomanni. Io penso sia grave quando un ministro così importante come Saccomanni dica sono un esecutore o nessuno mi ha istruito. Io penso che il ministro dell'economia debba essere guidato da un politico, allora, come regola generale. Vabbè, sorvoliamo su questa cosa e andiamo invece prima di entrare nel vivo lì col tuo ospite lì ad Augusto Minzolini, il quale dice che la Pascale Minzolini, questo è stato direttore di un telegiornale, TG1, no? Sì, principale del giornale. Minzolini, direttore, insomma, sì. direttore. Minzolini, vabbè, direttore. Dai, smettila. Pascale ha fatto politica come Nil De Jotti. No! Sì. Ma non è possibile. Sì. Ha fatto politica Francesco Pascale, cioè, ha fatto il consigliere provinciale, per cui che parli di politica, se ne occupi, non mi sembra una cosa che mi meraviglia più di tanto. Poi se andiamo a vedere anche, diciamo, in altri partiti, cioè, c'è sempre stato, diciamo, un elemento. No, diciamo che è un caso di doppio incarico, ecco, però. Beh, se non mi fa tornare a Nil De Jotti, vogliamo tornare a Nil De Jotti e togliamo. Con Nil De Jotti, che fissazione! Allora, c'è una cosa. Ed è con noi in studio il mitologico Enrico Banzina. Eccolo! Buonasera! Oh, buonasera a tutti. Dove sono gli applausi? Come finti andiamo? Applausi finti, li facciamo noi. Applausi al maestro Banzina. Eccoci qui. Una grande folla che si è assiepata intorno a voi. Sapore di te, l'ultima grande fatica, ma non sarà ormai una fatica, di Enrico Banzina and friends and brothers. Della ditta. And sì, brother. Io incontro sempre Banzina a un ristorante a Roma, fisso. Ogni volta che ci vado, le poche volte che vado a Roma, incontro sempre a un ristorante. Ma perché va sempre allo stesso ristorante? Perché è sotto casa mia. Per quel motivo là. Adesso certo. Non voglio fare pubblicità, se non facciamo. Andare a mangiare. Chi se ne frega, si dove? Se ti Io mi domando perché tu vieni lì, però. Invece. Perché si paga troppo, dato che sto un po' attento. No, le poche volte che vado là mi invitano ad andare là, magari perché è buono, che ne so. È molto frequentato dai giornalisti. Prima c'era il Manifesto e Corriere della Sera vicino. Esatto, insomma, esatto. Io volevo chiedere subito a Banzina, eccomi, una cosa, ma Renzi, no? Che è l'uomo di cui si parla. Tu lo voteresti innanzitutto? L'ha votato forse? No, non l'ho votato. No, a me piace Macaluso. Come Macaluso? Ma che c'entra Macaluso? Il vecchio PC migliorista. Mi piace quella sinistra lì. Cioè, ti piace Napolitano allora? Ma Caruso, amico di Napolitano. Sì, ma mi piace quella serietà, perché per rottamare, rottamare è importantissimo nella vita. Sì. Bisogna rottamare quasi tutto, perché è giusto che sia così. Però bisogna farlo con eleganza e bisogna farlo soprattutto con grande educazione. Cioè Renzi è violento? No, secondo me lui esagera a buttarla in caciara. Sì. Mentre Macaluso, che è un vero garantista, perché ti piace proprio Macaluso? Perché rappresenta quella sinistra che io rispetto moltissimo e che secondo me è stata molto importante in questo paese. Ma tu lo voteresti uno come Renzi oppure? Bisogna vedere come si muove nei prossimi. Certo. Ma hai votato PD? Non ho votato mai. PD. No, ho votato socialista allora e PD mai. PD mai, mai. Però, io sono come il Corriere della Sera, sono più a sinistra della destra e più a destra della sinistra. Senti Enrico, ma non sarebbe perfetto per un tuo film, però Renzi a me mi sembra proprio perfetto. Ma sicuramente ha delle doti d'attore meravigliose. Poi so che ha come Ghost Rider ha avuto perlomeno Brizzi, per cui insomma. Sì. Vabbè, quindi Del Ramo, insomma. Fa un po' di cinema, usa il PD come. Insomma, Brizzi è molto intelligente e sa sicuramente scrivere delle battute ad effetto. Però credo che sia importante ormai chi fa politica assolutamente Renzi dietro, perché assolutamente Berlusconi è pazzo di Renzi anche per questo, cioè non vede altro che Renzi, vuole scegliere le persone proprio a immagine e somiglianza di Renzi, è così. Ma credo che anche Renzi in fondo è affascinato da Berlusconi, c'è qualcosa che li attrae, è un rapporto meraviglioso, quello è da fare un film perché è stupendo. Ecco, ma dico, perché in realtà è come credo che Berlusconi a Forza Italia vorrebbe Renzi, assolutamente. Trova, però assolutamente invece non lo trova. Beh, scelto Adesso ha scelto il signor Toti, lo conosci? Sì, manca lo conosci però, Toti? No, non lo conosco. Enrico, però manca una T, io conosco quell'altro. Totti. Solo Toti. Beh, porterebbe voti Toti. Però questo, questo è indicativo, Toti for president. Toti chi? Io conosco solo Toti. No, poi conosco dei Toti che sono dei famosissimi imprenditori romani, che uno è il presidente del basket romano. No, questo però è Totti, ex direttore del TG4. Ma quello è anche quello Toti. Come no? Però lei non lo conosce. No, non lo conosco. Toti lo conosco anch'io, è costruttore. No, come Totti for president, insisto. Scusami, questo adesso ci arriviamo. Però Enrico, è un no perfetto per un tuo film? Renzi, Renzi. Sì, ma dai. No, guarda, io credo che gli faresti fare in un film? Quale parte? Tante volte mi hanno chiesto di fare del. Io sono più bravo a fare i soprannomi dei personaggi politici che a pensarli come protagonisti di un film. Sì, per cui il soprannome a Renzi, che soprannome daresti? No, il soprannome di Renzi ancora non ce l'ho, però ne abbiamo fatti tanti. Però non voglio entrare qui in una polemica e poi dopo parte. No, ce n'è uno molto bello che ho raccontato quest'estate al mio amico Gino Paoli. Dimmi. Che è quello di Luigi Bisignani, che non è un politico. No. Però il soprannome è meraviglioso. Qual è? Avevamo quattro amici al TAR. Dai Renzi, dimmi qualcosa su Renzi, qualcosa ti è venuto in mente, dai. No. E Berlusconi, adesso che ha un po' di tempo libero, la pay di più. Lo vorresti Berlusconi in un film, un cameo, lo faresti fare? La pay di più? È colpa mia se ci abbiamo il figlio Frocio. Frocio di sex. Moderno, mamma, ecco, moderno. Moderno. Volendo un par de palle! Zazza. Ma questo cos'è, David? Tu che sei un esperto. Vacanze di Natale, Christian l'originale, De Sica. L'originale. A Cortina. Ma questo è 83, cioè il dibattito su. Eravamo avanti però. Hai capito? San Agnelli. Altro che avanti, cioè super avanti. Sono le stesse cose di cui si parla oggi. Esattamente. C'è Enrico Vanzina con noi in studio. Ovviamente non c'è più Vacanze di Natale, quello che era, Sapore di Te. Ma quanti film antesi hai rotto i coglioni di fare sti film, Enrico? Perché? Questo Sapore di Mare l'abbiamo fatto 30 anni fa. Ma appunto, Sapore di Te adesso, quello che esce. Quello è che un film sugli anni 80. Ma non ti sei. Di fai film, non ti no, sei. Questo rotto, mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo fare il cinema. Ho trovato una cosa bellissima in un libro su Woody Allen. Domandavano a Woody Allen, dice, ma lei ha fatto in fondo poi la in realtà dei film di evasione, molti film di evasione. Lui ha risposto sì, ma la verità è che dai film hanno aiutato a evadere me. Quindi ti serve per evadere? Mi serve moltissimo. Comunque Birzi dice che ci sono delle commedie demenziali e si riferisce secondo me anche ai tuoi film, diciamo. No, assolutamente no. Dice di no, secondo me a Zalone, si riferisce a Fuga di cervelli, a tutto un altro tipo di cinema. No. Sì, assolutamente sì. Forse i film di Natale. Io i film di Natale non li faccio da 15 anni. Per cui... Però quando parla di commedie demenziali, vi meritate dicendo leghisti. Ma vedi, lui parla di commedie demenziali. In realtà, Paolo è molto più bravo a fare il film che ha fatto, che esce oggi. È molto bello, l'ho visto, bellissimo. Lui è più bravo a fare il Melon Noir. Quando fa la commedia, fa in realtà non fa la vera commedia all'italiana, fa una commedia ideologica che non è la vera commedia all'italiana. Se vogliamo parlare di commedia, possiamo andare avanti. Però scusami, questa roba qui che ha detto sulla Brianza ha esagerato un po'. Ha sbagliato? No, assolutamente no. Hanno sbagliato quelli della Brianza, perché è assolutamente inconcepibile che un artista, una persona che fa il cinema, prende come sfondo una regione, un popolo, una città e quelli si arrabbiano. Prima parlavamo qua, c'è stato un film, tutto si ripete, tanti anni fa uno dei più bei film della commedia italiana, che si chiama Signore e Signori di Pietro Germi, distruggeva Treviso, non è che... Ma che vuol dire? O i romani come però, escono scusami, Enrico, quando faccio febbre da cavallo, allora vuol dire che i romani sono tutti così? D'accordo, però lui non si è limitato a fare il film, che io sul film manco discuto, ma bellissimo. In un'intervista a Repubblica ha detto delle cose, cioè non è che non ha detto... Io non l'ho letta l'intervista. Ha detto delle cose, insomma, sulla Brianza berlusconiana, le solite stronzate. Beh, dai, questo è il conformismo proprio che non ha più senso di dire queste cose qua. Però sul fatto che... C'è la polemica tra leghisti e Virzì, tu stai dalla parte di Virzì. No, io non sto dalla parte di nessuno, però pensare che se si parla di un argomento, di una città, di un... La si insulta. La si insulta, no, questo non ha senso, è una cosa proprio da... da tu li aboliresti? Ma sai, Giuseppe, che ieri c'era Bertinotti alla prima del film di Vanzina. Grande amico di Vanzina, sono Bertinotti. Ma i finanziamenti pubblici al cinema li vogliamo abolire o no? A favore? Allora, i finanziamenti vanno dati soltanto alle opere prime. Però la cultura va sostenuta, vanno dati alla distribuzione, a cercare di col fisco magari No, secondo me bisogna dare la possibilità ai film nostri con degli aiuti di essere visti all'estero, ecco, questo, però scusami Enrico, è normale che uno come Virzì prenda 700.000 euro, poi magari ritorneranno allo stadio in un altro modo questi soldi, però questi 700 è giusto o no? No, secondo me guarda, adesso c'è un meccanismo di interesse culturale che non so neanche come funziona. Io fino a quando è nato questa cosa qua, probabilmente gli ultimi due film, perché i produttori li cercano e qualcosa prendono, abbiamo preso forse anche noi, ma per 35 anni che faccio io non ho mai preso niente, nulla, e credo che il cinema si deve misurare col mercato, è tutto qui, ed è abbastanza ridicolo vedere quella lista in cui ci sono i massimi autori appunto della lobby di un certo tipo che prendono tutti i soldi. Quindi è una lobby quella che riesce a prendere i soldi? Secondo me sì. Secondo me sì. Che sono amici di amici, di politici? Io però penso che quando c'era il centrodestra al governo sicuramente eccetera, eccetera, prendevano i soldi. Questo è assolutamente inconcepibile. Sì, no, assolutamente. Senti, ma Dudu non è perfetto per un film? Ma Dudu, a me piacciono molto i cani, però quel cane lì non è che proprio mi piace moltissimo. Perché? No, ma a me tutti i cani mi piacciono, però mi dà un senso di un cane finito in una storia più grande di lui. Cioè, povero cane, dici tu. Vedo una tristezza nel suo sguardo che mi fa immalinconire. Ma stai un po' in una reggia pazzesca. Ma non è vero, invece in realtà è una come prigione. È come quei principi così slavati che non... Stiamo parlando di un cane, maestro Banzina. No, però è vero. Banzina, non ha tutti i torti. C'è una vena di malinconia nel comportamento di Dudu. Gli mettono quelle cose addosso, insomma, poverino. Cioè, provi un po' di pietà per quel cane lì, dici tu. Sì, però mi sta simpatico, insomma, però è vero che ha uno sguardo sempre un po' lontano, sempre uno sguardo perso nel vuoto. Ma cosa dite? Il cane con lo sguardo perso ma nel sì, vuoto? Sta sì lì come un pascià in una reggia pazzesca, servito da maggiordomi, il cuoco Michele, la signora Pascale. Senti, dimmi ma invece... i soldi fanno la felicità? Punto interrogativo. Anche per i cani, no? Dici, anche per i cani. Senti Enrico, ma Brunetta, ecco, invece dimmi qualcosa di Brunetta, dai. Brunetta, io l'ho conosciuto tanti anni fa. Devo dire una cosa adesso, scusate la banalità. Brunetta però è molto intelligente. Ci parlate qua, questo non c'è dubbio. Molto. Per cui io non leggo il mattinale, come si chiama? Quello mattinale, che quello che manda tutti i giorni. Dice che Zalone ha fatto un film berlusconiano. Questa è una stronzata, dai. Ma certo che è una stronzata. I film non sono niente, i film sono film. Di solito. Però Brunetta ci ha provato a mettere il cappello sopra. Vabbè, ma sbaglia. insomma, la politica si occupasse di altre cose, lasciate perdere il cinema, insomma, no? Che è una cosa che non conta niente, il cinema italiano non conta nulla. Come però non? Però ogni tanto può far cadere i governi e fa tendenza. Quelli che dicono che tu, il tuo è un cinema di serie B o di serie C, come rispondi ancora? Ancora questa storia? Cioè, ancora qualcuno no, che lo ormai siamo diventati, mio fratello, dei culti, per cui è una tragedia. Vivere in vita essendo culto è terribile. Da, no, è da toccarsi. Scrive, no, da toccarsi molto, no, ma poi abbiamo veramente, anzi, invece c'è tutta una rivalutazione, è una tragedia. Fanno tesi di laurea, mi invitano ai convegni. Non sai che dire, convegni. Non so che dire, guarda, veramente. Vorresti parlare dei Totti. No, non è che vorrei parlare di cinema, perché questi dicono un sacco di stronzate e non parlano mai di cinema, sul serio. Cioè, che fanno trattati. Comunque, io dico una cosa, ragazzi. Sì, oggi non è sociologia. Oggi è successa una cosa incredibile. Vittorio Feltri, pure Vittorio, adesso tutti sono diventati a favore delle canne. Improvvisamente tutti sono diventati a favore delle canne libere. Allora Feltri oggi scrive, Feltri probabilmente lo era anche da prima, sì, cioè, sì. Però dice nero su bianco, ragionando senza farsi annebbiare dei pregiudizi nemici della nazionalità, cioè, occorre ammettere che la marijuana, per quanto non sia preferibile all'aerosol, non è più nociva di un bicchiere di vino o di un grappino. Non si comprende quindi perché debba essere osteggiata e proibita, quasi fosse un pericolo per la salute pubblica, essendo state equiparate gratuitamente alle pere e alle strisciate di polverina bianca. Diciamo la verità, dillo anche tu, Enrico, che se dai sempre grandi messaggi da questo punto di vista. Beh, io penso famose le canne, io non me le faccio perché non mi piacciono, però anch'io. Io te le sei mai fatte tu? Come no, è certo che me le sono fatte. No, è una persona sana, signor Vazzina, sai. Io sono, io avevo 17 anni nel 66, non mi facevo le canne. Ti sei dai, spaccato di canne? No, no, spaccato. Assolutamente. Ma anche no, adesso la cannetta ogni tanto no, te la fai? No, sì. No, no, no, veramente no, perché mi addormentavo e mi sono perso certe ragazze meravigliose perché si faceva la canna e quella dopo io mi addormentavo, ciao, il giorno dopo che la vedeva più. Cioè l'ultima canna quando te la sei fatta, scusa? Ma penso nel 69, 70 forse. Ah, cioè, neanche però dicono tutti così. Sapore di te. Dicono tutti così. No, no, ma è la verità. Comunque, in che senso il cinema italiano fa cadere i governi? Non ho capito, che l'hai detto prima. Beh, per esempio, non so se vi ricordate il film di Lucchetti sul portaborse. Fu ma per me che faceva cadere il governo. Ma accelerò moltissimo l'operazione Craxi. Ragazzi, insomma, memoria. Beh, allora, anche memoria. Caimano, allora. Poi ripassi, Caimano però non ha fatto cadere niente. Poi si riparla sempre delle stesse storie. Ha reso Berlusconi ancora più forte. Stoccatina Moretti del signor Manzini. No, stoccatina. Mi piace moltissimo. Beh, il Caimano ha reso Berlusconi ancora più forte. Beh, questo certo, è bello questo. Penso di sì. Forte, sì. Penso ciao, sì. Caro. Ciao, Enrico. A presto. Che ciao. Daresti per lo scudetto della Roma? 10 anni di vita in meno? No, darei 5. No, nulla. Me lo merito. E che te meriti, sì. Te meriti. Io mi tocco dappertutto. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho tanto per farvi capire chi è uno dei principali sostenitori in Europa, anzi in America, del regime nordcoreano. Mi sono fissato, sì, lo so, Davide, mi sono fissato. Che devo fare? Capisco. Mi sono fissato con la Corea del Nord. Allora, sì. Tanto tutte le cose di cui bisognerebbe occuparsi, lei si occupa della Corea del Nord e di questi quattro scalzacani che la difendono. Allora, tanto per farvi capire, l'ex cestista Dennis Rodman, che ha vinto vari titoli NBA nel basket, eccetera, eccetera, è uno che qualche tempo fa, qualche anno fa, ma roba di 2-3 anni fa, si faceva intervistare da una radio a Miami, mentre sul suo letto gli facevano un pompino. Come? Senti, in inglese, ma si capisce benissimo. Cioè, mentre lui si faceva fare un pompino a letto, lo intervistavano a una radio di Miami. È meraviglioso, senti. I'm with you. Dennis, are you getting it on in the car right now or what? I'm in my bedroom. Oh, you're in the bedroom? Are you getting it on? Oh, then we know exactly what's going on in the bedroom. No, but she said suck something. I'm sorry, but it's fine. You said you clean, right? Come on. You did keep it clean. You have kept it clean. I'm very impressed that you've been able to do that thus far. Absolutely, brother. Com'è che diceva she's sucking? Absolutely. Io ho capito solo absolutely. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuovo scontro sulla Tasi, scelta civica minaccia, se non cambia maggioranza a rischio, i sindaci chiedono una soluzione per coprire il minor gettito. Nuove tensioni su Saccomanni, ma il PD ripete non chiediamo rimpasti. Letta ora serve un cambio di passo. Il ministro Del Rio, ospite del TG3. Il sì dell'Europa al piano lavoro di Renzi, la direzione giusta, dubbi del ministro Giovannini, la CGIL ci vuole più coraggio, ma si può discutere. Arrestato Cerroni, il patron di Malagrotta, per una mega truffa sullo smaltimento dei rifiuti nel Lazio, 21 indagati tra politici e funzionari regionali. Una sola cosa ho imparato, la scuola non è sicura, così scrivono i compagni di scuola ai funerali di Andrea, precipitato in un pozzo accanto al cortile del liceo. Nuove pesanti critiche del comitato scientifico al metodo Stamina, nel protocollo Vannoni una quantità di cellule adatte ai topi, non certo all'uomo. Dall'Uruguay agli Stati Uniti la legalizzazione della marijuana sta prendendo piede nel mondo e anche in Italia si riaccende il dibattito. E Taormina colpisce ancora. Professore, professore mio. Professore Taormina. I froci sono ormai all'ordine del giorno. Ma insomma, qui ormai i froci sono all'ordine del giorno. Perché è logico, più dai l'esempio, crei una condizione per cui è tutto normale, anche quelle sono cose normali, e più ovviamente altro che outing, chissà quanti outing ci saranno andando avanti. Dilaga il fenomeno. Dilaga il fenomeno, perché è pieno di, è ormai pieno di gente che non ha, che non, sì, beh, insomma, ce ne stanno tanti, non è che ce ne stanno pochi, insomma. Si deve comprare un libretto ogni anno con cadenze mensili, sì, per come è formato, nel quale se tu hai comprato il preservativo lo devi segnare. Pure. Certo. Tanto tu non lo usi, che è te frega. Tanto tu non lo usi, che te frega. E mica sono frocio io, scusa. Perché solo i froci lo usano, scusa. Beh no, i froci lo usano spesso, sì. Ma perché, scusa, perché? Perché sennò pigliano le malattie, pigliano, no, fra di loro. Ma anche gli eterosessuali le possono prendere. Ma sì, ma è un po' più difficile, ecco, cioè, perché là non è, vai davanti, non vai dietro, capito? Quindi, ah, beh, quello è vero, quello è vero. Se non vuoi vedermi intorno. I veri italiani. Un giorno farà outing anche Berlusconi, vedrai. No, vabbè, allora vuol dire che finalmente abbiamo uno che ha le palle e che si comporta in maniera regolare, da vero italiano, come diceva Quattro Occhi quando l'ammassavano. I veri italiani non sono froci, ecco, tanto per intenderci. Com'è la storia? Non abbiamo tanto capito per intenderci, non abbiamo capito bene. I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza, va bene? Beh no, va bene, insomma, no, va bene, mica va tanto. Bene, va bene. Oh, comunque ragazzi, rispuntano i forconi, o almeno dicono di rispuntare, ma insomma, forconi. Non è bastato quello che è successo. Non è stato sufficiente il flop? Non è stato sufficiente la figura barbina? Non è stato sufficiente le piazze vuote? Non sono state sufficienti? Non sono state sufficienti le poche migliaia di persone degli ultimi giorni? Dai, su. Per carità, alcune ragioni ci saranno pure, ma non è sufficiente quello che è successo alla fine di dicembre? Vi riproponete ancora? Vi presentate ancora? La rivoluzione bisogna saperla fare. Bisogna saperla fare. Non presentarsi come l'armata Brancaleone. Sentiamo questo qua, Gobbi, no? Che magari ha le sue ragioni contro Equitalia. Per carità, Gobbi, un tale che si chiama Gobbi. La nostra iniziativa è pigliare a calci in culo i funzionari di Equitalia. Adesso l'ascoltiamo, ma risentiamo Calvani invece. Calvani, andatevene con dignità o ricominciamo la lotta. Noi abbiamo dato l'ultimato, abbiamo detto da Natale a tutto il governo, ai parlamenti, in maniera autonoma, andatevene voi, in maniera con dignità, perché ora che se ne vadano con dignità, quindi se non ve ne andate noi ricominciamo la lotta. Ma andatevene chi poi? Ultimatum. Ma andatevene chi? Oh, Gobbi, sentiamo Gobbi. Gobbi, Gobbi, Gobbi, arriva Gobbi, regia Gobbi. Dal 22 di dicembre noi andremo anche a casa, di gennaio scusate, andremo a casa delle persone che hanno problemi con Equitalia, che avranno esecuzioni immobiliari in corso, ad impedirle, in massa andremo ad impedire questo, prenderemo a calci nel culo il funzionario che si presenterà a chiedere i soldi o a chiedere il mobile. Calci in culo gli strozzini. Prenderemo calci nel culo lo strozzino che vorrà comprare quella casa lì al 10% del suo valore. O la paga al giusto o va fuori dai coglioni, la casa non è in vendita. Lo difenderemo noi quella persona lì, in assoluto. Questo è il principio del coordinamento 9 dicembre. Coordinamento del 9 dicembre. Va. Marco da Roma, buonasera Marco. Buonasera, buonasera. Senta, volevo, ma prima di Taormina era un imitatore, non era il vero Taormina? No, no, era lui, era lui. Era lui, era lui, ma è stato anche sottosegretario, tra l'altro. Sì. Taormina, sì, come no. Vabbè. All'interno, certo. No, io volevo tornare certo sulla questione invece, certo. Senatore Razzi, meglio del senatore Piano. Sì. Allora, premesso che io sono contrario all'istituto dei senatori a vita, però su questo non posso essere d'accordo. Certo. Perché nel caso specifico direi che è meglio Piano. Senso, a lei piace certo. più Piano, a me piace più Razzi, allora? No, perché da italiano preferisco allora... una figura di merda, cioè solo questo. Io sono più ma che mi frega a me, ma di queste cose. Ma ha ragione l'ascoltatore questa. Ma da italiano dove? Figura di merda dove? Dove? Quando? Ovunque. Ma quello manco ce va in Senato, per cui manco c'è la possibilità di fare le figure di merda. O le belle figure. E meno male. Sì, ma ho capito, ragazzi. Lui dice è conosciuto nel mondo, quando tu vai nel mondo e dici Piano è il nostro senatore del Parlamento. No, stiamo pensando che la scelta può essere stata inopportuna, sì, che certo. sbaglia non andare in Senato, che Bravo. Se non ha tempo di andare in Senato Bravo. Era meglio che continuava a fare l'archistar, però nel caso specifico Razzi no. Certo. Cioè, sì, Piano no, ma è il classico paradosso, certo. che però io in questo caso non è solo un paradosso, è proprio quello che penso, per far capire che Razzi in Senato è meglio di Piano. Razzi in astratto, ma neanche in astratto, sì, nel caso specifico no, io almeno non c'ho lo stomaco, poi per carità, uno che va magnificando la Corea del Nord, abbia pazienza, anche no, diciamo, no, già ce ne abbiamo tanti di problemi, ma una figura di merda in meno, no? non è che uno chiede diciamo l'abolizione dell'IMU sul serio o un quadro normativo stabile sulle tasse sulla casa, una figura di merda, almeno questa in meno ce la possiamo permettere. Antonio da Firenze, Antonio. Sì, buonasera, quindi Taormina, buonasera Parenzo. Dimmi. Taormina ti direbbe tranquillamente, ma quanti bei froci puoi incontrare lì alla fortezza? Quale fortezza? Non ci siete più a Firenze? No, ma noi non ci siamo mai stati, c'è stato il Mago Telma, c'è stato. Che bella figura di merda che ha fatto. Allora? Sbagliato radio, che ha fatto? No, perché vi... No. Vi volevo portare tutti i film di Virzì. No, davvero, allora avevo capito che eravate a Firenze. Vabbè, ma è uguale, dove siamo? Che differenza c'è? No, scusa. Non ci hanno voluto. Perché c'è un film di Virzì, sì. che si intitola La Serie di Agosto, dove sì. un personaggio interpretato da Fantastichini sembra Cruciani. Sì. L'altro interpretato da Silvio Orlando sembra Parenzo. E devo dire, ora. Il fatto che Cruciani voglia cancellare, dare un colpo di spugna al berlusconismo, non si fa post-berlusconismo di cui non si fa che parlare da un paio d'anni. Mi sono rotti i coglioni di queste robe qui, il berlusconismo, il post-berlusconismo, sono cose inesistenti, non esistono, non esiste, il berlusconismo è inesistente, esiste Come? Berlusconi e quelli che ha portato in politica Berlusconi. Beh, esiste una cultura berlusconiana. Ma quale cultura, ma quando mai, ma dubbio. Sono tutte puttanate, dai, su, ma quali sono la cultura berlusconiana, quale sarebbe? Da che cosa è incarnata? Enrico Ma quando mai? Scusami, ma Enrico Enrico, ma che chi vota chi? Chi vota Berlusconi è berlusconiano? Ma che dici? Certo, ma quando mai? Enrico da Ferrara. Si riconosce in una storia, in un pensiero. Non è così. Ho votato Berlusconi un sacco di volte, non mi riconosco. Mi riconosco in pochissime cose. Ne dai, appartieni su. Perfettamente ma a quella cultura. Guarda, in quel Enrico da Ferrara, ma non dire stronzate. In quella roba là sei dentro perfettamente. In quella roba inaudite. In quella idea delle donne. Sei dentro perfettamente in quella idea lì. Mi dici delle tali ed enormi cazzate. Ma è esiste, mi stupisco. Ma tu no, esiste. Ma ridere. Ah, ma no, ha parlato quello che era direttore e poi diventato deputato di Forza Enrico Italia. Enrico, ma che c'entra? Enrico da Ferrara, non c'entra nulla. Enrico, dimmi. Buonasera. Dai. Io ho ascoltato la telefonata ieri di Paolo Mocavero. Mocavero. Animalista si fa per dire. Oggi mi sta sputtanando sul sito, sul loro sito. Adesso andremo a vedere. Ci sta sputtanando in che modo? Perché dice che è venuto qui a fare il figo. E dice che è venuto qui a fare il figo, signor Mocavero. I miei problemi, signor Mocavero. Ma andiamo a vedere il loro sito. Sì, l'ho visto. Ma sono dei pazzi. Sono pazzi. Per la morte dei salumieri, dei pescatori. Sì. Ehi. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non mi molesti il moschito. Why don't you go home? Non mi molesti il moschito. Sei ancora a casa, Sefo? Non mi molesti il moschito. Why don't you go home? Apriti cielo, perché sai, l'invidia, no? È forte, eh? Però non so come si metterà con tutti quelli che sarebbero in procinto di essere rottamati. Mi chiedo la Santanchè, mi chiedo Brunetta, mi chiedo tante cose, Michela Biancofiore, no? Tutti quei Verdini, apri di cielo, no? Apri di cielo in senso buono. È un po' invidioso di Giovanni Toti. Perché un po'? È limitativo, sono invidiosissimo. E io ho avuto un... non so se si possa dire, un bel culo, cioè, nel senso che è una fortuna, non so come lo vogliamo girare. Certo che sono invidioso. Amici del TG3, ma non è che potete copiare le domande pure, amici. Era il TG3 questo? Era il TG3. Era l'intervista che abbiamo fatto ieri. Sentono l'intervista a Fede, poi dice, fammi le stesse domande, va. È invidioso di Toti? Dai, su. Cornute che non sono altri. Questi sono dei cornuti. Vabbè, comunque sti cazzi. Io non esagererei. Ma che me frega a me poi. Comunque, allora, il signor Mocavero, animalisti 100%. Io ho visto, no? Il sito, cosa signor Mocavero. Io ho visto. Ovviamente Parenzo, ex comunista ripulito, ex zerbino di Zanonato e molto paraculato che ora lavora per Confindustria, mi conosce da vecchia data. Ha subito specificato che sono un ex di Forza Nuova, che mi sono candidato sindaco per il partito di Fiore. Cruciani, come da copione, ha finto di meravigliarsi. Del resto l'ho detto e ridetto in tutti questi anni. Se penso di screditare me o i 100% animalisti buttandoli in politica, fanno il mio gioco. Ha scritto Zerbino di Zanonato. Sì, la trasmissione. Querela. L'ho portata dove volevo io, nonostante le numerose interruzioni dei due simpaticissimi giornalisti comici. Sì, dove la volevi portare tu, amico mio? Sì. Ho parlato di pellicce, rinfacciando a Cruciani di essere un sostenitore della moda che gronda di sangue. Io non sono affatto un sostenitore della pelliccia. Dico che non si può proibire la pelliccia. Capito? Ho parlato di cacciatore, di quanto pezzi di merda sono. Ho parlato di Macelli, di Briatore, riuscendo a farlo offendere dallo stesso Cruciani che ha tentato di farmi cadere nella sua trappola. Ho ribadito che i manifesti di Milano contro gli sfigati vivisettori di turno non li hanno di sicuro affissi degli animalisti. Alla fine ho provocato Cruciani a tal punto che senza nemmeno un congedo ufficiale, che mi era per educazione dovuto, mi ha buttato giù il telefono. Amico mio, era finito a tempo, c'era la pubblicità. Mocavero, sveglia! Why don't you go home? Cruciani, non devi dire cazzate. I vivisettori credo abbiano rosicato non poco per quello che ho detto. In quanto ai medicinali generici, li invito ad informarsi meglio, possibilmente nei loro siti di merda dei loro padroni di merda. Anche i cacciatori hanno rosicato una botta. Dire a migliaia di ascoltatori che i cacciatori sono dei luridi ubriachi assassini, credetemi, non apprezzo. No, ma non apprezzo perché ti abbiamo fatto fare la figura del coglione, Mocavero. Quando uno dice che i cacciatori sono dei luridi ubriachi assassini, sei un coglione. Te lo ripeto, se uno dice così, secondo me sei un coglione. Uno può dire che bisogna vietare la caccia, non che sono dei luridi ubriachi assassini. Il rosicamento di questi merdosi è esploso in rete subito dopo la trasmissione insieme ai loro amici sadici con il camice bianco. Non vi dico quante me ne hanno scritte, ma va bene così, fa parte del gioco e bisogna accettarlo. Dimenticavo, vivisettori, cacciatori, aguzzini di merda vari. Non sono stato io a chiamare Cruciani per intervenire nel suo show, ma è stato lui. Beh, te credo, chi ha detto il contrario? Dai, su. lascio con un video dove Cruciani dichiara la sua vera indole anti-animalista, dove pontifica che l'animale, senza troppi giri di parole, è una merdaccia che deve soccombere al volere dell'uomo. Facciamolo girare, che ne dite? Sì, sì, fatelo girare. Silvia da Roma. Anzi no, c'era Enrico da Ferrara. Aspetta Silvia, Enrico, che volevi dire? No, io dicevo che sono un perseguitato di questi esaltatori di animali per finta. Sì. Non posso neanche dire tanto come, perché ho veramente paura, perché mi hanno veramente fatto delle cose allucinanti. Ho una bambina, però credetemi. Ma in che senso t'hanno minacciato, scusa? Minacciato. Posso dire che hanno chiamato il mio capo in azienda dicendo cose allucinanti. Ma chi? Chi? Chi? Chi? Loro. Questi di un sedicente avvocato di questi 100% animalisti, ovviamente con nome falso. Ah, ma gli uomini di Mocavero! Per loro. Ragazzi, vabbè, ma chi se ne frega? Ma... fascisti, questa è una setta di fascisti. Ma certo. Una setta, cosa... fascisti, me ne frega. Una setta. Ma fate delle ricerche in internet, c'è gente che viene proprio. Addirittura quelli che hanno aderito e stanno adesso, che hanno lasciato, quelli sono proprio massacrati. Silvia. Pronto, buonasera a tutti. Io ho telefonato per fare una domanda specifica a Parenzo, al signor Parenzo. Che domanda volevi fare? Posso farla? Cara, siamo qui. Siamo dimmi, qui. Dimmi, dai, veloce. Parenzo, io siccome la stimo tantissimo e non la sto prendendo in giro, mi chiedo come possa lei farsi umiliare certe volte, come capita più di qualche volta. Ma io sto qui a combattere, anche... a rispondere colpo su colpo alle ingiurie, alle invettive, attacco, uso anch'io un linguaggio crudo, duro, tagliente. Ma anche nei titoli di testa della trasmissione, ma lì è Mughini. No, precisi con alcune provocazioni. Ma qual è il problema? Non ho capito, Silvia, qual è il problema? No, niente, volevo fare questo, siccome stimo vuoi chiedere a Parenzo perché si lascia, secondo lei, esatto, umiliare così? Mi sembra un po' masochista, certo, è vero che bisogna guadagnarsi da mangiare, per carità, e il pane è importantissimo, però arrivare a certi punti, come non capisco, ad esempio, sempre se posso, signor Parenzo. Io mando a fare il culo, così come purtroppo ricevo, e do quel che ricevo alle volte, no? Come possa lei dire, siccome questo jingle viene sempre mandato... Ma quale? Quale jingle? Maledizione, come, quale? Come nei titoli di testa o durante la trasmissione stessa, come lei possa dire di stimare dell'utri? Ma quello è un gioco. No, voglio bene, dice, voglio bene. Io, David Parenzo, voglio bene, dire. Lo dicevo con ironia, ovviamente, ma gli voglio anche bene come, sì, non come così, come personaggio che conosciamo da tempo. Ma qual è il problema anche lì? Non ho capito, perché uno non vuole un po' volere bene a dell'utri. Non è che lo conosco, lo frequento tutti i giorni. Ma non ti giustificare, l'hai detto, signora, ma è ironia, non ho capito, ma Silvia, non ho capito. Ma adesso ritratti. Politiche non posso, ma uno come dell'utri non si può, no, è impossibile. Ma era ironico. Bisogna impiccarlo, che dice? Per me è stato fondamentale saperlo. La ringrazio molto. Prego, arrivederci. Fiorella da Bologna. Fiorella. Allora, ciao animale Cruciani, buonasera animale Parenzo, sono l'animale Fiorella. No, mi ha attaccato con gli animalisti. Poiché stasera non appartengo al regno vegetale. Sì, ma abbassi la radio, dietro di lei, abbassi allora il volume. Allora aspetta un secondo che l'abbasso. Ma aspetti che, ma non è che siamo, vuole anche un caffè, un cappuccino, vuole qualcosa, una brioche, cosa vuole di più? Questa è andata là a spostare. Eccomi qua. Sì, self service qua. Avanti, Fiorella. Allora, buongiorno animali. Ancora, ma l'ha già detto. In questa misteriosa avventura terrestre. Si sente il volume. Perché a mio parere è molto, molto misteriosa l'avventura terrestre. Perché io nasco cosiddetta tra virgolette persona e lui nasce tra virgolette maiale, è molto misterioso e non credo che non ci sia un perché. Io penso che noi animali cosiddetti intelligenti dobbiamo gestire il tutto, non ritenerci padroni, ma una parte del tutto, e gestire il tutto, perché noi, signora Fiorella, siamo un grande disturbo. Sì, disturbo, certo. Animali. Scusi, Fiorella. Perché loro hanno la loro intelligenza e il loro adattamento. Fiorella. Noi siamo intelligenti non più di loro, ma di un'intelligenza diversa dalla loro. Loro non giocano in borsa, non fanno le cose che facciamo noi. La loro intelligenza è adatta a risolvere i loro problemi, e a loro è più che sufficiente. Scusi. E noi li riteniamo poco intelligenti, e quindi inferiori, sì, e li tiranneggiamo pensando che noi siamo superiori, Deus di tutto, e invece così stiamo massacrando il mondo, perché noi dobbiamo trovare il nostro posto insieme a tutto e non, sì, al di sopra di tutto. Certo, non c'è dubbio. Signora, l'ha abbassato il volume oppure devo venire a strozzarla lì a Bologna? Italiana. L'ha abbassato totale il volume maledetto dalla radio, perché sento ancora un ritorno. Lo vuole chiudere questa radio o no? La vuole, esatto, chiudere? Esatto, che ormai è tutto finito. Ma questo l'abbiamo capito. La vuole chiudere questa radio o no? Maledizione. Ecco. Oh, la deve chiudere, spegnere. Allora, l'ho lei, spinta, da, l'ho qua, abbassata al massimo. Da quale manicomio è uscito lei? Io? Sì. Dal manicomio terrestre. Ah, ecco, appunto. Quello, ecco, del globo terrestre, perché siamo tutti pazzi. Sì. Nessuno può dire chi tutti è più, sì, o meno pazzo. Beh. È la follia ordinaria approvata dalla maggioranza e la follia straordinaria, sì, della minoranza. Bene. Ma beh, ricovero no, eh? Ah, sai, io non ho problemi, mi trovo bene dappertutto. Tanti matti, il mondo è pieno di pazzi. Ma certo. Anche fuori sto bene. Ma lei quanti anni ha, signora Fiorella, scusi? 59. 59. Anagraficamente. E invece? Quanti me ne sento non ho ancora ben chiaro. Più o meno. Ma più o meno, non so se si può avere una chiarezza di quanti anni uno si senta. Ma eh? Non so, insomma, non so. Lei quanti se ne sente? Ah, non glielo dico, perché le ho detto che non ho chiarezza e non credo che sia poi così importante, perché quel che conta è l'esperienza che una persona fa. Si può arrivare a 90 anni ad essere deficienti. Sì, confusa, no, la signora. Sì, sì. È vero o no? Sì, sì, certo. Sì, sì, sì, sì, non c'è dubbio. No, non c'è dubbio. Chiaro che è così. Vabbè, Fabio da Roma, Fabio. Buonasera, vorrei fare una considerazione riguardo questa pletora di nuovi senatori a vita che sono stati eletti nominati. Allora? Per Presidente della Repubblica. Allora? Mentre invece Giacinto detto Marco Pannella, sì, che ha fatto tante battaglie della nazione, sì, non è stato. E chi se ne frega, si può aggiungere o no? Scusi? Ma è passato, a parte che è passato del tempo dalla nomina dei senatori a vita, primo, secondo, andrebbero aboliti, terzi, chi se ne frega di Pannella senatore a vita? Beh, no, quello poteva essere un bel... Beh, ma no, perché dice così? Su questo ha ragione questo. Ma non me ne frega niente, Pannella senatore a vita, ma andrebbero aboliti e basta. Beh, con tutto quello che ha fatto Pannella adesso ancora si abortiva, ecco, ma non è vero. Bravo, bravo, non si poteva neanche divorziare. Bravo, bravissimo, bravo. Vabbè. Fabio, ha ragione. Oh, Alfano stasera ha detto: se il Partito Democratico propone il matrimonio, sì, gay, il nuovo centrodestra lascerà il governo. Ah beh, ah beh. Le ceneri della città. È ossessionato dai gay, Alfano, eh? Fortunato da Bergamo. Fortunato da Bergamo. Pronto? Dimmi, Fortunato. Volevo dire che i cacciatori hanno tutti la fedina penale pulita. Ma dipende. Amano la natura. Sì. Rispettano gli animali, sì, e rispettano anche chi li offende, fino a un certo punto però, perché chi va oltre, nel nostro paese c'è la libertà di opinione ed è giusto, sì, esprimerla. Lei caccia? Ma non c'è la libertà di offendere. Sì, sì. Lei caccia? Io sì. Allora c'è qualcuno che vi vuole morti, eh? Lo so, ma signor Mocavero, signori, hanno minacciato anche il professor Silvio Garattini. Come no, certo. E l'hanno minacciato di morte. C'è stato qualcuno che li ha definiti neopagani, perché adorare l'animale e non mettere al centro l'uomo. Questa persona si chiama Benedetto XVI, non è un cacciatore, però probabilmente... Vabbè, adesso non mette in mezzo Benedetto XVI nelle diatribe tra animalisti e cacciatori, adesso mi sembra esagerato. Chi mette al centro l'animale e non mette al centro l'uomo, evidentemente una punta di neopaganesimo ce l'ha. Comunque... Volevo parlare anche dell'assessore Fava, che ho conosciuto al tavolo delle trattative, diciamo così, in regione per quanto riguarda la politica venatoria. E che ci frega devo assolutamente dissentire per quanto riguarda la depenalizzazione. Ma adesso lei, scusi, leggere. Fortunato, lei fa il cacciatore. Adesso che c'entra le droghe leggere? No, volevo dire che il cacciatore respira l'aria pulita. E beh, che c'entra? Sì, c'entra. Perché? C'entra, perché ho conosciuto questo personaggio e non sono rimasto stupito delle sue affermazioni. Ha capito? Non ho purtroppo capito bene. Però no? Non ce lo siamo scelto noi. No, me lo spieghi. In che senso non è rimasto stupito? Perché? Che aria ha sentito? No, è una persona che direi rifiuta il dialogo. Sì. Vabbè, ma questi sono affari vostri, che ne so io, Fortunato. Sì, comunque ritorniamo sugli animalisti, che era un po' il leitmotiv. Stava parlando dei 100% animalisti, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ecco, sono numerose le loro iniziative. Hanno imbrattato e messo i manifesti minacciosi su armerie in provincia di Treviso. Hanno provocato in occasione delle manifestazioni fieristiche. Qualcuno bisogna che li inquadri. Comunque le dichiarazioni che ha fatto il loro presidente saranno poste all'attenzione del nostro ufficio legale. Vabbè, chi se ne frega. Grazie, grazie Fortunato, grazie. Ancora a casa, Simo. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rendo isterico. Siccome ci sono ancora un po' di donne anziane che ci seguono, caro Parenzo, allora vi dico una cosa, gentili signore, che alloggiate dal Trentino alla Sicilia e in tante vi siete messe all'ascolto di questo programma. Questo programma sulle onde di Radio 24, che non scordiamolo mai, è la radio del Sole 24 Ore, cioè di Confindustria. È meglio lavorare, no? Voglio darvi un messaggio che vi allieterà la giornata. Aia. Non tutto è perduto, ci sono ancora speranze, ce la potete ancora fare, gentili signore che magari avete una certa età, over 60 diciamo. C'è un uomo, e dietro di lui tanti uomini ancora. C'è un uomo soprattutto che non vede l'ora di offrirvi le sue prestazioni sessuali. No. Sì. Ma che roba è? Di darvi quelle gioie che magari non avete più da tempo. Ma perché? Perché non avete il coraggio di dirlo, magari di confessarlo. Cioè che magari volete un uomo più giovane o che volete ancora dare sfogo alle vostre passioni, alle vostre pulsioni. Quest'uomo, signore all'ascolto, si chiama Rocco Siffredi. In un'intervista ha confessato che cosa? Ha confessato il suo amore sconfinato per il sesso delle donne anziane. Quando una ragazza non ti piace, quando con una ragazza non c'è feeling, quindi che fai? Sono due tecniche. La prima è quella di imparare a drizzare il cazzo da solo, voglio dire, sviluppando una parte del corpo della donna quando la donna non ti piace e annullare tutto il resto. Questa stessa tecnica mi ha aiutato nelle vecchie, perché io sono rientrato a capire che quella donna lì, con quegli occhi lì, una volta era giovane, bella e magari anche porca. Quindi io riesco ad entrare in quegli occhi, che gli occhi, tu sai che la palla degli occhi, l'occhio, lo sguardo non invecchia mai. Quindi tutto il corpo casca a pezzi, quella parte no. Se tu quella parte riesci a ritornare dentro la vita di quella persona, in automatico tu riporti avanti quello che poteva essere la sessualità di quella donna, e io con quella parte lì mi arrabbio. Capito, David? Siamo a livello di malattia, lo sai, no? Eh beh, certo, è chiaro. No, basta chiamare le cose e metterle col loro nome, però. Siamo parlando di Rocco! No, capito, ma bisogna mettere l'etichetta, siamo a livelli... Allora, sembra veramente non radio care, della care ascoltatrici, una volta Rocco ha fatto sesso con tre persone 250 anni in tre, ti giuro, 250 anni in tre. Senti. Alle donne anziane... in condizioni di poterle scopare, tanti altri attori non ci sono mai riusciti, io sono l'unico che ci riesco, così come riesco con una ragazza bellissima. Ma tipo una vecchia anziana di quanti anni? Qual è il tuo record? Credo che ne ho fatte tre insieme, avranno fatto 250 anni in tre. 250! Dove ha rilasciato queste dichiarazioni? 250 in tre! Cari amici, dichiarazioni a una splendida intervista, una splendida intervista al giornale Off, al giornale Off. No, sì. Me l'ero persa. Non siete seri per niente. Ma noi non vogliamo essere seri. Le gambe sulle braccia. Poi mi punge. Giovanni da Pesaro, buonasera. Buonasera Cruciani. Dimmi. Ascolti, desidero dirle con molta serenità, sì, che la tua affermazione circa l'inesistenza del, sì, berlusconismo è sbagliata e sono d'accordo con Parenzo. Le spiego in due parole. Il berlusconismo è quella rappresentazione della politica, sì, che non va per fare le cose, ma soltanto per far vedere che si è lì. È quello è la sua critica a Berlusconi, è una cosa diversa. Cioè, lei sta criticando Berlusconi e dice che tutto quello che ha fatto Berlusconi è tutta una roba di apparenza e non di sostanza. Vabbè, ci sta la critica, per carità, però non è che questo è il berlusconismo, è quello che si inventa lei essere il berlusconismo, scusi. No, io sto dicendo che questa serie di attività ha caratterizzato un'epoca. Ora che cosa accade? Io oggi compio 62 anni. Vabbè, allora. Credo che lei sia più giovane di me. Sì, per fortuna sì. Quando si è in un'epoca, come per esempio il primo dopoguerra, il secondo dopoguerra, la scoperta dell'America, e si nasce in quell'epoca, si percepisce come ordinario, come normale, tutto ciò che noi abbiamo appreso nei primi anni. Ora, secondo me, lei ha vissuto quest'epoca in modo talmente diretto per cui non riesce a cogliere la differenza con ciò che era prima e con ciò che verrà dopo. Questa è un'opinione, lei può condividerla o meno. Guardi, esiste Berlusconi, quello che ha fatto in politica Berlusconi, che esista come dire una cosa che si chiama berlusconismo, che ha a che fare con i comportamenti, con i costumi, è una cosa assolutamente ridicola. Che esistano i berlusconiani, sì, perché esistono le persone che hanno seguito Berlusconi in politica, esistono, come dire, quelli che amano Berlusconi in maniera sconfinata, e tante cose ancora che riguardano il fenomeno Berlusconi, il carisma in politica, gli scontri uno contro uno. Ma significa riconoscere un sistema di valori, e questo quale, che tu non capisci. Ma quale sarebbe per esempio il sistema di valori? Cioè, dimmi una sistema parte di valori. Dimmi. Che io non voglio esprimere giudizi. No, ma dimmi una qual parte è il sistema di valore, dimmi un valore, dimmi un che valore. Esprime quell'idea, per esempio, dimmi un valore. Quell'idea del self-made man, del self che cazzo dici, tutto, ma quello esisteva prima di Berlusconi. Tutto mi. No, lui ha incarnato quello detto? Spirito ma lì non... del fasso tutto mi. Vabbè. E lo stato megarotto e bae e l'imprenditore che deve fare e via i laccio e lacciuoli, come diceva, e una certa idea della società. Beh, è quello pratico, perché se no uno ma perché... c'era già prima. Basta stare con l'odioso insetto. Basta, ma che stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Perché affonda il vecchio. Io ho una certa nostalgia del senatore Dell'Utri, io non so perché. Una certa nostalgia. È un po' di tempo che non lo sentiamo, questa voce così che mi è diventata familiare quasi. Per cui ho una certa nostalgia di Marcello Dell'Utri alla Zanzara. Chissà che pensa di Totti, per esempio, della nomina di Totti. Cala. No, non calo, che vuol dire? Cala. Non devo calare per niente, quasi. Pier, provincia di Milano. Buonasera, Cruciani. Io volevo ringraziarlo perché lei è veramente una radio libera, una radio anarchica che passa dalle mozzarelle alla vendita dei surplus o chissà che cosa. Quello che mi dispiace è che è anche un po' uno stronzo, perché lei con certe persone come con Desiano la piglia molle, con altre invece con delle persone. Con Desiano l'ho presa molle. Sì, l'ha presa molle, cioè uno che cazzo che è deputato, consiglio comunale, consiglio provinciale. Ma l'abbiamo già detto mille volte. Così lo poteva mandare a fanculo. Sì, così lo chiamo e lo manda a fare in culo, che lo chiamo a fare, se lo devo mandare a fare in culo, scusa. Scusi, no, lei una persona del genere deve avere il coraggio di dire, guardi che lei eticamente è uno stronzo. Ma scusi un attimo, abbia pazienza, Pier. Ecco. Lei può darsi che abbia ragione. Stia calmo un attimo. No, ma sia calmo lei un attimo. Se io lo chiamo e dici, scusi, lei ha fatto il consigliere regionale, il consigliere provinciale, il consigliere comunale e il deputato in contemporanea, lei è una testa di cazzo. Secondo lei come va a finire questa conversazione? Può essere anche un modo, Che noi sappiamo che c'è veramente. No, ma può anche essere un modo per affrontare le interviste. Lei mi sta dando un consiglio. Benissimo, noi iniziamo così. Siccome lei ha fatto il deputato, il consigliere regionale, il consigliere provinciale. Sì, ma l'abbiamo capito. La parola in contemporanea per lui è importante. Il consigliere comunale, lei è uno stronzo, una testa di cazzo. Allora, eticamente? Sì, eticamente, ma non è importante adesso specificare eticamente. Se secondo lei, se io faccio questa osservazione al dottore professore maestro Desiano, senatore della Repubblica, l'intervista finisce dopo un secondo, ma magari è una tecnica interessante, cioè potrebbe essere introdotta. Quando noi dobbiamo colpire qualcuno, lo chiamiamo, lo invitiamo con tutti gli onori. Ma Cruciani, non mi fate girare i coglioni. Io stamattina sono andato al centro provinciale per l'impiego. Sì. Per accendere il computer ci hanno impiegato 25 minuti. Ok? Per accendere Windows, quello che è a casa sua, lei schiaccia il bottone sul suo portatile, in 2 secondi è aperto. noi abbiamo sti stronzi che sono lì così, che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, che girano da una parte all'altra e non sono in grado di portare avanti il lavoro per la gente che c'ha bisogno. Secondo punto che io vorrei segnalare, sì. Si parla tanto di legalizzazione delle droghe. Di io lei mi sono no, no, prego, positivamente scusi. D'accordo nella legalizzazione, sì. Però quello che vorrei segnalare è che il padre della B Generation, Lawrence Ferlinghetti, no, si non si è mai fatto una canna. Perché non se l'è mai voluta fare. Capito? Kerouac, Ginsberg, Corso, si sono fatti d'eroina, si sono fatti tutti, ma lui che è stato il padre di tutta quella generation, ne è stato lontano. Lei invece ogni tanto si fa qualche cambiata. Anni, quando gli parlo, gli dico... Un attimo. Questo è Mocavero, eh? Non vede il numero, risponde. Non ci sta ascoltando, capito? Pronto? Pronto? Pronto? Parlo con il signor Mocavero? Sì, non, chi parla? Scusi, non sento. Pronto? Sono il dottor Busana, presidente provinciale dell'Associazione Cacciatori Lombardi. Ma allora mi chiami con un numero, mi deve chiamare con un numero che si veda, sennò la testa di cazzo, vaffanculo. Bravo, bravo, benissimo. Lei si è qualificato. Testa di cazzo, vaffanculo. Quando ho sentito che sono i cacciatori. Hai capito, Fortunato? Così va ecco, la storia. Questo è il dialogo che esiste tra persone civili. Richiamiamolo. Sono qui insieme a 7 presidenti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative. Bravo Fortunato, bravo. Adesso loro hanno sentito, come hanno sentito in diretta, qual è il livello di civiltà di queste persone. Ma sì. Si commenta da solo, vero? Viva la caccia! Anzi, beh, no, io non è che viva la caccia, forse è esagerato. Io non è che io non vado a cacciare. No, io non vado a cacciare. Ma male che lei ha detto viva la caccia. Mi sì, fa ma io non è che ho detto viva la caccia perché mi piace la caccia. Io non sparerei a nessuno, però, per esempio, lo dico apertamente. Una volta sono andato, ero in Africa. Aspetta, prima mi è stato il cane. No, già no, sono andato una volta in Africa. Una volta in Africa. Adesso i racconti di Cruciani. Mangi i cani, mangi i gatti, vai in Africa a sparare alle notte. No, a chi hai sparato? Non ho mai sparato. No. Allora, devo dire, mio zio è un cacciatore. Cacciatore, diciamo, normale, un cacciatore non di quelli assidui, però va tipo in Serbia, non so, delle cose pazzesche non farei mai, no? Perché evidentemente in Serbia o forse anche in Spagna. Tu andresti in Serbia, ma per vedere altre comunque, cose. In Serbia, questi coglioni al vetro stanno scrivendo sei come Giannino che racconta le cazzate. Adesso, per carità, adesso vi vado a fare in culo sul serio, Cruciani, non devi dire cazzate. Ma non dico affatto cazzate, dico le cose come stanno. Sono andato, l'aneddotica vera, sono tutte cose vere, certificabili. Chiamate mio zio a casa, professore Enrico Cruciani. Ma chi se ne frega? Ma perché uno deve chiamare tuo zio per sapere se è vero? Chi se ne frega? Però comunque la cosa è questa: una volta sono andato in Africa, in Madagascar. Sembra sa la nonna quella vecchia seduta sulla carrozzina. No, caro Fortunato, il mio parente, in questo caso mio zio, mi voleva portare con lui a sparare sulle botti, non so che un posto. Sì, le anatre. Una cosa assurda. Però era tutto contro, perché ci sono delle aree specifiche, specifiche, tutto controllato. Lato, eccetera, proprio le specie che si riproducono. È un'attività come un'altra che si rimanda, no? È nata con l'uomo la caccia. Ma sì, è nata con l'uomo. E ci sono delle regole molto rigide che noi rispettiamo e vogliamo che vengano rispettate da tutti i praticanti. Per cui c'è un controllo. Vabbè, comunque ha sentito come risponde il signor Mocavero? Ha sentito Mocavero? Tutti hanno sentito come il signor Mocavero accetta il dialogo e soprattutto come si esprime. Va bene, Fortunato, a presto, grazie. Grazie a lei. Roberto da Padova. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Stavo rientrando dall'ufficio in macchina, ho sentito alcuni interventi. Certo che intervenire dopo ragionamenti limpidi come quelli di Siffredi e di quel signore di 62 anni che ha chiamato poco fa non è semplice. Vabbè, detto questo, mi sento piccolo. Detto questo, avevo ascoltato il discorso di Razzi e dell'architetto Piano. Ecco, allora, che il senatore Razzi abbia dei problemi con l'abecedario l'abbiamo capito tutti quanti. Però se dobbiamo riscendere a livello di figure particolari, Eh beh, anche l'architetto Piano non è che diversamente dall'onorevole Razzi, diciamo, si sia comportato, perché presentarsi in Senato solo ed esclusivamente i giorni in cui c'era maggiore visibilità e c'era la decadenza di Berlusconi, la trovo veramente una cosa, diciamo, criticabile. Vabbè, ma questa è roba vecchia ormai, superata, su, roba vecchia, superata. Ecco, e così anche per quanto riguarda altre cose. Poi, fatalmente parlando con Parenzo, non è che esiste un berlusconismo per cui tutti quelli che votano Forza Italia o il Partito del Popolo della Libertà si comportano, debbono comportarsi in un determinato modo. Ma sì, ma questo è Parenzo che pensa che ci siano... Lo so, ho capito io, però... Ma chi c'era prima in onda con noi? Pier, chi c'era? No, Pier, adesso, io ho detto un'altra cosa. Io adesso vado in giro a dire Parenzo chi? E parlo in toscano, non è che all'improvviso mi sento... renziniano o mi comporto in un modo, cosa c'è, diciamo, ma no, questo non c'entra. Va bene, Roberto da Padova, grazie. Roberto da Padova. Gino dalla provincia di Genova. Oh, meno male. Vai. A che ora ci entri tu e il tuo emerito socio nello studio lì di via Monterosa 91 a Milano? Perché che vuoi fare? Guarda, io qualche giorno vengo lì e ti prendo a calci in culo a te. E il tuo omonimo, il tuo padre. Ma dove vieni? Quale Gino? Omonimo, è pieno di polizia. Vedrai che vengo. In via Monterosa c'ero 15 anni a lavorare da Ma dove vai? Ma perché devi prenderlo a te? Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Dove vai? Dove? Ma metti che non mi denunci. Ma chi ti denuncia? Ma io manco ti vedo. Manco ti vedo. Schiaffoni. Ma esco dal garage. Ma chiamo la polizia. 70 anni. È da ieri che aspetto di dire a quell'altro coglione lì quando ha paragonato... ieri sera ha detto: io non sono acculturato, te lo dico subito, non ho la vostra laurea. Quando ha detto a una signora o un signore se farebbe morire una vacca, una mucca, ho usato un paradosso. Cosa e ho detto ieri? Se si trattasse, se è un paradosso, cioè per ipotesi, se dovesse salvare una vita umana oppure una mucca, salvo no? La vacca che... io. Mia mamma, 11 figli ha messo al mondo, poverina. Nelle colline di Reggio Emilia, in Campania, mia mamma salvava la vacca, perché tu non lo sai nemmeno le vacche quante persone hanno salvato. Coglione, impara prima di dire cose simili. Eccolo qua. Parenzo, coglione, laureato. Ma che c'è? Ma non c'entra. Ma io ho fatto un paradosso. Ho capito mia mamma quando moriva una vacca, mio papà, quel povero uomo lì. Ma erano altri tempi. Ma no, poi non c'entra niente questo. Mio papà in quelle colline lassù dove ci dovevamo nascondere, arrivano i Tudak, sai cosa vuol dire? Arrivano i tedeschi. Mia mamma nascondeva la vacca perché senza la vacca non mangiavamo. No, ma non è questo, ma non era ma questo l'ho capito perfettamente, ma non è questo in discussione. Ma Gino, ma non è questo in discussione, tu che sei scappato dai fascisti. Bravo, io sono d'accordo con te. Non leccatemi. Ma no, tu sei scappato dai fascisti perché mi è piaciuto questo racconto che hai fatto di questi tedeschi. Ma è giusto perché era scappato dai fascisti. Beh, certo. No, non sono scappato, mi nascondevano sotto la scala, non sapevamo dove andare. Vedi, perché certo. Questo è ti piace solo perché scappava dai fascisti, il solito. Ma certo, se scappava dai comunisti, dei comunisti era un'altra cosa. Ma perché dai, doveva scappare dai comunisti? C'erano mica i comunisti in Italia. Ma come? Era pieno di comunisti. E che perseguitavano? I comunisti? No, perseguitavano i comunisti. In Italia perseguitavano qualcuno. In Italia. Cos'è? Il nuovo De Felice, il nuovo Cruciani. Che cosa fai? A parte che perseguitavano. Ma chi sei? In Italia. Venivano perseguitati i comunisti, se mai, dai fascisti. Hanno perseguitato, non ti preoccupare. Alla nuova storia, dopo l'aneddotica facciamo anche la storia secondo Giuseppe Cruciani. Hanno perseguitato anche in Italia. Cioè i comunisti in Italia hanno perseguitato. Ma vallo a raccontare a coso. Cioè i comunisti in Italia. Sentiamo questo. Assolutamente. Forum storico, dopo Focus Forum Economia. Senti, vado a raccontare a Giampaolo Panza che ha raccontato mille storie di comunisti, cioè, comunisti che in Italia hanno perseguitato i comunisti in Italia hanno perseguitato, sì. Come no? Pura, alla fine non sai niente, alla fine della seconda guerra mondiale ci sono state delle cosiddette vendette partigiane, è quello sto parlando, la persecuzione è quello. Ma quale persecuzione? Hanno perseguitato e ucciso un sacco di gente. Ma quale? Se Togliatti ha fatto anche l'amnistia alla fine della seconda guerra mondiale. Ma che c'entra? Dai, vabbè, fai parlare Gino, Vi prego, ascoltatemi. Sì. Non stavo nemmeno in piedi con mio papà, dal mio paese sono andato a Tovano. Io mi chiamo Gino. Se vi ricordo, se lo sapete, non so se quando moriva un fratello. Però scusi, ma noi che ci frega delle macchie adesso, le mucche, qual è il punto? Non dica così, la prego. Ascoltatemi, io ho chiamato ieri sera, un quarto d'ora ho aspettato, poi lei alla fine ha detto ci sentiamo domani. Sì. Come funziona lì la faccenda? Perché oltre a prendere calci in culo voi due, che forse magari non so se ci entrate, vorrei prendere la calcio in culo. Adesso sono le 8:30. Chi vuole prendere la calcio in culo? Chi vuole prendere la calcio in culo? Ah, i centralinisti. E da ieri, ma quei poveri ragazzi lì sono un call center. No, che call center? No, stanno qua, quale call center? Mica stiamo schiavisti. È da ieri sera che sono al telefono, io devo lavorare. Ma voi fate perdere il lavoro alle persone. Ma come funziona lì la cosa? Ma nessuno la obbliga a stare qui. Scusate se vi ho disturbati. Notte, e dorme in un tombino. Allora Gino, vogliamo concludere questa roba o no? Sì, voi date fiato, date spazio a persone che raccontano delle sciocchezze infinite, tipo il signor Taormina. Lì dove c'è la statua di Verdi, della casa della musica, lo sai dov'è, eh? Sì. A due passi da voi? Sì. Allora? Ecco, c'è la lì. Piazza Buonarroti, sì, o no? Piazza Buonarroti, sì. Ecco, lì in via Piazza Buonarroti c'è una via, via Raffaello Sanzio, una gelateria. Sì, come no, la conosco bene. La conosci bene, bravo. Lì, insieme a mio cugino Vincenzo Mollica, l'altro coglione, lo sai chi è Mollica? Sì, il giornalista del TG1. Il giornalista del TG1. E che è tuo cugino? È mio cugino primo. Un giorno, ma guarda, adesso ho saputo che siete in Vincenzo Rola. Quando io sono un taxista qui a Rapallo, vengo su e vi racconto la mia storia, c'è da piangere. Ma non ho capito, che c'entra Mollica? Mollica è mio cugino. E perché è uno stronzo? Che male ha fatto? Che ha fatto di male? Perché lo cerco da una vita per raccontarle la mia vita, cosa mi è successo, e non si fa trovare. E perché non si fa trovare? Perché è un coglione, perché è un laureato. Lo sai cosa dicono qua in Liguria? Quando a merda monta un skate, a spissa. Lui è diventato Vincenzo Mollica, giornalista di primo ordine. Io Baroni Gino, che comunque non lo invidio, non lo maledico, passa di qui perché va a Sanremo a presentare il festival. C'è l'uscita del casello di Rapallo. Il suo nome era Baroni Gino, quello era Cerotti Gino. Le dico lì quando telefono in redazione. Fatelo, niente, lui non mi chiama. Sai perché? Perché è un laureato, vedi? Ma laureato. Non scusa, ma è cugino diretto. Per favore, Cruciani, non mi dica a me che cazzo me ne frega. No, ma è cugino diretto, non sto dicendo che cazzo primo me ne frega. Diretto, è figlio del fratello. Mia mamma, mio papà la chiamava la donna della Baroni Cesira. Sì. Aveva un seno pieno di latte, veniva lì a Milano. Ma questo però che particolare. Cioè, ascolta, Cruciani, Davide. Ascolta, mia mamma veniva lì a Milano a dare il latte ai bambini dei ricchi. Addirittura. Bellissimo. Te lo giuro, mi venisse un accidente se non è vero. No, per carità. Io ho una storia, ho una figlia mancata. Io un qualche giorno voglio venire lì e facciamo una trasmissione. Io ho voglia di presentare a questi italiani, a questi politici. Questo potrebbe essere bello. Però scusa, Gino, io dico una cosa. Ma perché non facciamo un bel appello a Vincenzo Mollica, tuo cugino Vincenzo, scusa? Ecco, diglielo tu, dai. No, facciamo un appello. Caro Vincenzo, parlami. Da quanto tempo che non ci... Vincenzo, ho lasciato il numero mio telefonico a tutti... Ma chiamiamolo noi adesso, scusa. Ma da quanto tempo è che non parli con tuo cugino? Mettiamolo in contatto, caramba, che sorpresa. Io c'ho... Lì in via Raffaello Sanzio abitava mia zia Gina. Sì. Che gli frega però, Gina, scusa, mia zia, Cesira mia mamma, sì, Noemi sua mamma, sì. E erano tre sorelle. Gino, ma tutta sta gente però con grandi una fotografia con Vincenzo Mollica. Io avrò avuto 16 anni, sì, perché ero garzonetto lì a Milano in una salumeria. Lui ne avrà avuti 7 o 8, sì. Poi sono andati in America, gente, in però... Canada, questi qua. Il calabrese suo padre, l'altro mascalzone che pure però scusami, sì. Te lo chiedo in ginocchio, ma al signor Quinzio Pasquale a chi ascolta Mollica, mascalzone, ma che cosa ma chi gli frega della storia di Gino, delle mucche di Mollica, del latte della sua madre, l'ho capito, però fanno tacere uno, quando mia mamma dava il latte, ma tutto fallo tacere, quando mia mamma dava il latte ai vostri genitori, lassù se non c'era la mucca, a me chi mi dava da mangiare? Scusami, Gino. Mi stai raccontando la storia della famiglia, del cosa, la mucca, Mollica, ma perché dovrebbe essere interessante, per carità di Dio, però... A Bruno Vespa, o da quell'altro lì, come si chiamano gli altri due, queste storie dovreste raccontare. Ma è la storia della mucca, cosa cosa vuol dire? Gino, della mucca. Sì, Gino, Gino, scusa un attimo, io vorrei chiederti una cosa. Con una mucca ci vivi e con la, la, la finanza creativa degli americani. Questo o una vero, cosa. Però scusami, Gino, Gino, sei come Corona, de, quello che dice che viviamo con la terra, sì, e con il resto non conta niente. Sì. Però scusami, sì, Gino, Mollica, facciamogli un appello a Vincenzo Mollica, dai. Sì, Vincenzo, ti prego, ho lasciato il mio numero telefonico. Posso darle il mio numero? Sì, dallo, se dallo, vuole, dallo. Vincenzo, se mi senti, ascolta, 336, comunque ce l'avete anche voi lì. Dai, vai. Allora, ripeto, 336, sì, 2527, sì, 50. Sì. Gino, Baroni, Gino, c'ho la fotografia, io e lui a casa della zia Gina, lì in via Raffaello Sanzio. Sì. Però, caro Mollica, sì, giornalista del TG1, che deve fare allora? Del TG1, sì, che mi deve contattare, che voglio raccontare la mia storia. E poi ce n'ho un'altra. Ma siete cugini o no? Siete cugini diretti o no alla fine? È vero o no? Primi diretti. Guarda che se non è vero ti ma vengo a cercare lì a Ravallo e ti butto al mare. Cugini, cugini. Cioè tu mi stai dicendo che tuo cugino non ti vuole parlare da quanti anni? Non lo so se non mi vuole parlare. Perché sicuramente lui, giorni fa ho telefonato. Hai esordato, dicendo che è uno stronzo. Scusa. Sì, uno stronzo, sì. Vabbè, non si può però. Perché non mi chiama? Vabbè. Ma poi perché ti sei appassionato a questa storia? Io mi sono appassionato di Gino, sono diventato un mito. Tutta la Gino, famiglia di Gino a Radio 22. Gino, ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio fortissimo. Parenzo, vengo a Milano e ti sculaccio. Ma Gino, ti abbraccio fortissimo. Anch'io, ti abbraccio fortissimo. Sono felice per... Pochi giorni fa ho sentito su Radio Padania, caro Parenzo, ho sentito su Radio Padania. Ma come vivi? Sì, vivo malissimo, vivo malissimo. Ma come vivi? Il nostro amico Sammy Varin, che si intratteneva con una gentile signorina. Una senatrice? No, nessuna senatrice. Una politologa, no, come no, Miglio, no, no, erede della tradizione di Miglio? No, una no. Mistress. Una mistress. Tu sai che vuol dire mistress? Mistress, una stressata. No, che c'è? Sarebbe mi sta per Milano, forse. Una stress. Una dominatrice. C'è una che è dominatrice dal punto di vista psicologico, sessuale, una che domina, dominatrice. Ma cosa vuol dire? Che, non lo so. Che... Comunque, sentiamo Sammy Varin. Senti, sui comunisti. Te la prendi coi comunisti, che è un po' che non gli dici niente. Comunisti. Ecco. Sapete cosa c'è rimasto ancora di rosso? Cosa? Il vostro culo, dopo le mie frustate. Oh mamma mia, tacciamo di infinite cose. La mistress padana quest'oggi c'ha il dente un pochino cattivo. Hai capito il personaggio? È curioso, questa Radio Padania è curiosa, diciamo. La signora Katrina Selkis. Ovviamente l'abbiamo invitata qui. No, abbiamo. Adesso, no. Perché? Ti vuoi? Beh, no, un momento. Perché? Momento. Cosa vuoi fare? Abbiamo sentito le storie del signor Gino. Abbiamo parlato per 20 minuti di mucche, di signore che allattavano, di Mollica che non si capisce perché. E ora ci proponi pure questa scusa, oggi siamo passati dal signor Banzina a Desiano. Esatto. E adesso ci vuole la Dea Katrina Selkis. Buonasera. Ma buonasera, ma Servi. Come andiamo? Servi della gleba, è un complimento. Ma come Servi? Ma dipende, se uno esordisce così. Lei è abituata così da padrona, anche con noi è abituata da padrona. Con tutti, io sono padrona inside e outside. Però sì. Scusi, lei è leghista anche inside, signora Katrina? Cosa vuol dire inside? Io sono padana. Molto leghista, padana. Diciamo, ma anche molto leghista, diciamo la verità. Ma diciamo che, essendo padana, oddio, è molto leghista, sono stata definita la mistress padana. Poi è anche vero che dispenso punizioni a destra e a sinistra. Questo è vero. Faccio leccare il piede destro e il piede sinistro. Si fa leccare il piede sinistro. Sono bipartisan. Scusi signora, non ho capito, cioè nel adesso poi spiegheremo perché lei è invitata alla Radio di Confindustria, ma nel dettaglio di che cosa si occupa la signora stressata padana? No, non è stressata, capito. Quella è mistress. È una stressata in senso positivo. No, allora lei di mestiere che cosa fa signora? La mistress. mistress, la padrona. La padrona, cioè lei si fa pagare per che cosa, scusi? Ecco, questo. No, io non mi faccio pagare, semplicemente i miei servi sguatteri, adoratori e schiavi ritengono opportuno il minimo portare un omaggio alla loro dea. Se fa pagare, su, diciamo la verità. Si fa pagare per cose di questo tipo. No, mi faccio omaggiare. Omaggiare, vabbè, insomma. Adesso io, per esempio, se mi volessi far sottomettere, a me non piacciono queste cose, devo dire. No, a me non piacciono. Raccontala giusto. Ah, lei ha notizie diverse, signora? Ma non mi piacciono, le dico che non mi piacciono. Un altro. Non mi piacciono. Che le faccio piacere io a fan di frusta. No, ecco appunto, se uno volesse essere frustato, per esempio, quanto paga? Sì. No, così, per curiosità, quanto paga? Mi porta un omaggio. Quanto, per esempio? Non so, un minimo, ci sarà un minimo, un massimo. Ma mi porta un regalo, può portarmi un mazzo di rose. Ma che un mazzo un di rose? Un provolone piccante. Ma scusi, ma lei come uno strapon. Alla fine, lei in un mese quanto raggranella? Cioè, quanto riesce a tirare fuori da questa attività di mistress? Riuscirà a campare, no? No, vivo di regali, omaggi e regalie. Omaggi e regalie. Devo dire che ha una sua filosofia, signora. Ma la signora Caterina. Fino ad oggi, guarda, ti ringrazio, fino ad oggi non conoscevo questo genere di lavoro. Però è giusto che a Radio dei Confindustria ci sia. Certo. Sono i nuovi lavori questi. Non è un lavoro, una passione. È una passione. Da me anche vengono uomini frustrati che vogliono essere frustati. Ecco, ma ci sono anche. Che tipo di persone vengono da lei? Per esempio, leghisti vengono? Sì, sicuramente li avrò visti, anche però politici. Vengo contattata di più da personaggi di sinistra che vogliono essere insultati da me e godono in questo. Ma insultati in che senso, scusa? Mi dicono: padrona, io sono un comunista di merda, voglio essere insultato per questo, allora infierisco. Oppure mi dicono: sì, sono un perdente di destra e voglio che lei mi insegni. Ma io non ho capito, adesso queste attività sono tutte attività di tipo sessuale, diciamo la verità. Tutte. No, sono solo attività di tipo fetish e sadomaso. Però ci sono pure, poi alla fine ci sono rapporti sessuali, sì o no? Assolutamente no. No, mai. Per uno viene lì per farsi insultare. Ci sono le escort e altro genere. Lei riesce a campare facendo la mistress? Ho detto che vivo di omaggio. Ma riesce a campare allora? Riesce a campare? Ma volendo posso schioccare le dita ad essere ospitata, servita e riverita da qualunque schiavo, quindi sicuramente riesco a campare. Si prodigheranno per questo. I nuovi lavori. Nel miglior modo possibile. Siamo scopritori, diciamo la verità. Siamo Confindustria, ci deve qualcosa, perché noi scopriamo nuovi lavori e nuove attività. Nuove attività. Beh, la vocazione per far vivere bene le padrone. Mi meraviglio che l'amico Barisoni non abbia, vuol dire, approfondito nella sua trasmissione questo nuovo job. Questa nuova attività che la dea Caterina Selkis. Ma dea, ma perché la chiami dea? Cosa vuol dire? Sì, la dea Eupalla. Perché sono una divinità, esatto. Ma a me pare una spostata comunque, perché no, perché è una spostata, guarda le foto, ma quale perché spostata? Una non guardo spostata. Le strofe, una che si guarda fa, no, una che guarda, posto io su Andy Frusta, ma io non mi faccio frustare per niente, secondo me lei. Guarda, ti farebbe bene, ma fai frustare, ma se ma guarda proprio guarda è un ambiente degradato, ma la vogliamo mettere in comunicazione con il professore, scusa. Sì, esatto, volevo dirti questo, esattamente. Esattamente, è l'unica che cosa cos'è? Che si che è un bel ambiente, appunto, di maiali, d'accordo, Tormina stavolta. Chiamalo subito, professore, fagli ascoltare la signora. È un ambiente di cani più che di maiali. Vediamo, scusi, se ma Tormina persone, si fa frustare. Prova a diglielo, proponiglielo a Tormina di farsi frustare. Vediamo se non ti manda a fare il culo in 30 secondi. Chiamalo subito, Tormina. Voglio vedere se gli dici avvocato, professore, c'è la signora Dea, la vorrebbe frustare, cosa? Chiamalo. Prova a vedere la reazione, vedi se non reagisce come me stavolta, Tormina. Vedrai come la manda a cogliere le margherite. Che bigotto. Scusi un attimo, ma questa attività di mistress, cioè di padrone, eccetera eccetera, signora, ma quante persone si rivolgono a lei, per esempio, ogni giorno? Ma non c'è una media fissa, può chiamarmi una, due, tre persone, o anche in un giorno posso ricevere 100 chiamate. Ecco, ma per esempio, qual è la cosa più assurda che le chiedono? Adesso, per carità, andiamoci cauti, la cosa più assurda che le chiedono qual è? La cosa più assurda, sicuramente i giochi di ruolo. Nei giochi di ruolo posso interpretare il personaggio più disparato. Sì, per esempio? Con uno ho dovuto fare la zia che lo sculacciava, in un altro caso ho dovuto fare la suora che somministrava penitenze e punizioni di tipo ecclesiastico. In un altro caso ho fatto la professoressa di economia che bacchettava lo studente impreparato. Professoressa di economia, dai. In altri casi la... Ma è vero, è tutto vero, è tutto. Questi che fanno, godono come pazzi? certo. Godono, godono come pazzi. Sì, come cani. Come, ma quanto lascia lei? Su, cioè, diciamo da questi qua, quanto lascia? C'è chi l'ha lasciato, che ne so, 1.000 euro? No, assolutamente no, siamo in tempi di crisi. Che ne so, 500, qualcuno ha lasciato 500 euro? Ma la vede molto interessata, vuole intraprendere l'attività no, di master no, per arrotondare. No, master no, per arrotondare adesso non esagero. Venga a trovare, no, master, insegna i trucchi del mestiere. No, vedere che faccia c'ha sta qua. Ma vuole fare lo schiavo allora? No, quello no, quello no. Non sono il tipo, non sono il tipo, assolutamente. No, non sono fetish man. No, assolutamente no, assolutamente no. Un attimo solo, Giovanni da Bergamo. Ma non chiami lui. Un attimo, professore. Ecco, aspetta il professore. Ma è questa qui sulla poltrona rossa? Sì, è lei. Aspetta. Ma cosa fa su quella poltrona? Aspetta, fammi sentire il professore. Sì. Se risponde, poi sicuramente risponderà. Stavolta non risponde il professore. Professore, che fine hai fatto? Professore, stavolta non ha risposto. Vabbè, cara mistress. Mi è andata bene o è andata bene a lui? Mi sa che le è andata bene. Forse è andata bene a lui. Forse è andata bene a lui. Però ci torneremo su questo. A presto, un abbraccio, a presto. Ciao cani. Ciao. Beh, cani. Ciao. Cani, adesso, cani intanto lo dice a casa sua, se mi permette. Bestia lo dice a casa sua. No, continui con Parenzo. Leccatemi i piedi. Ma vada a quel paese. Ma le piacerebbe. Vieni qua che ti frusto. Ma ti frustare. Ma si faccia una doccia gelata. Ma le piacerebbe frustare Parenzo, sì, ma ovviamente. Voglio vederlo tutto scudisciato. Ma poveretta, ma dai. Anche una bella lavatina. Gliela diamo una bella lavatina o no? Di testa? No, lo sa lei, una bella lavatina. Cos'è gliela diamo lavatina? O no? Una bella lavatina. Totale. Come facciamo? Come facciamo con la lavatina? Mi deve venire a trovare. Ma non ci penso neanche lontanamente. Ciao. Non fare il timido. Esatto. Non quale timido? Non mi interessa. Ciao padrona, ciao. Ciao, buona serata, bestie. Ciao. Alessandro da Torino. Alessandro, sì, dimmi Alessandro. Sì, senti, io secondo me dovete smettere di fare gli stronzi. Perché non è possibile che siete diventati così dei perbenisti di merda. Cioè? Come ultimamente state facendo, non è possibile. Cioè, che vuoi dire? Spiegami. Ma io non ci credo che voi siete a favore di questa vivisezione perché una ragazzina da un giorno all'altro si è svegliata e ha deciso di... mettere un video su innanzitutto la vivisezione è proibita in Italia. Io dico semplicemente che quando si fanno le sperimentazioni sugli animali, quelle consentite dalla legge e che portano a dei risultati, e quando non ci sono ovviamente delle alternative. Ma quali risultati? Ma è scritto che non è vero, niente, ma chi lo dice? Lo dite voi, estremisti che non servono a niente. E ma non è questione di essere estremisti, è questione di essere un minimo però liberi delle... Scusami Alessandro, poi come si fa a sapere se servono o no? Bisogna farle prima di sapere se servono o no, no? Sennò, sì, ho capito, ma non facendo soffrire qualcun altro, perché non è possibile. Oddio, questa storia. Io devo far soffrire un altro. Oh. Ma allora senti, se viene uno da me e mi dice: senti, hai 6 mesi di vita, sei a favore che sperimentiamo su di te? Io gli dico sì. Ma non un essere vivente che magari deve vivere ancora 10 anni. Vabbè. E bisogna sperimentare su di lui. Ho capito, una polemica già vecchia, una tesi già vecchia. In conclusione, la mitica telefonata, molto breve ma significativa, tra un cacciatore di Milano e Mocavero 100% animalisti. A domani. Pronto? Parlo col signor Pronto? Mocavero? Sì, chi parla? Scusi, non sento. Pronto? Sono il dottor Busana, presidente provinciale dell'Associazione Cacciatori Lombardi. Ma allora mi deve chiamare con un numero che si veda, sennò la testa di cazzo, vaffanculo. Bravo, benissimo. Lei si è qualificato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Che orrore. Radio 24. La passione si sente.